ringrazio perché te ne vai. Hai capito che il nostro amore è finito come tanti. Scompare nel buio, piano piano tu vai nella notte per staccarti da me. Però ricorda ovunque tu andrai che no, non dimenticherò la gioia che tu mi hai dato in giorni e giorni vissuti assieme. E ricorda che i nostri profili vagano insieme nel cielo, seguiti da questa musica che li accompagnerà per sempre. Cosa che resta di noi, un motivo.